all'inmila e lì gestisci un lanciano di mia 24 mattino. E allora, signori, sono le 7:19 minuti, siamo pronti qui con la lettura dei quotidiani. Questa è la rassegna stampa di 24 mattino. Forza Peter Bescabè, andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo qui in questo giovedì 16 febbraio con i titoli. Intanto l'apertura del Sole 24 Ore sull'Europa e le banche. L'Europa vuole gli stress test sui titoli tossici delle banche. Gli esami al 2018 da allargare anche i titoli level 3. E quindi le banche in primo piano. Poi l'attualità internazionale per il Corriere Repubblica, perché Trump ha incontrato il leader israeliano Netanyahu alla Casa Bianca. Trump cambia la linea su Israele. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Mentre Repubblica, Trump Putin s'allarga lo scandalo e salta pure il ministro del lavoro. Allo studio truppe americane in Siria. Mentre su Israele il presidente congela la politica dei due stati. In Italia la stampa: PD patto a tre per la scissione. Il patto a tre è quello tra Emiliano, Speranza e Rossi, patto anti-Renzi. Mentre per Libero la vicenda Feltri, la vicenda Fini, a casa Fini girano milioni. Questo è il titolo del quotidiano Libero. Su Fini titola anche La Verità, con un titolo molto sdoganato. Fini è tutto fuorché un coglione. Per allontanare i sospetti su casa di Monte Carlo e riciclaggio, l'ex presidente della Camera si era definito così e aveva sostenuto di non essersi mai accorto di niente. Questi alcuni dei titoli, vedremo se c'è spazio per altri nella lettura dei giornali. Voglio però tornare sulla vicenda di Lavagna, perché ieri ci sono stati i funerali di questo ragazzo di 16 anni che ormai lo sapete, se avete letto qualche cronaca, avete seguito qui, insomma, la rassegna stampa, si è suicidato dopo un controllo a casa, 10 grammi di hashish trovati a casa dopo averli trovati anche a scuola. Allora, diciamo che ci sono state tante polemiche nei giorni scorsi proprio su questo controllo dei finanzieri. Ora si scopre che è stata la madre, disperata, in difficoltà, non sapendo più come fare per il figlio che, a suo dire, era finito in un brutto giro ed era in mano agli spacciatori, queste parole sue, ha chiamato i finanzieri. È stata lei. E infatti anche ieri al funerale, un funerale molto sentito, un funerale in cui c'erano centinaia, se non migliaia di persone. Eccolo qui i titoli che trovate sui giornali. La madre del sedicenne suicida: ho chiamato io la finanza. Questo è il titolo, per esempio, di Repubblica a pagina 19. Tra l'altro una madre che ha detto delle parole straordinarie in questo momento di grande dolore al funerale. Straordinarie, tra poco le leggerò. Comunque, prima il comandante della finanza dice e dichiara nell'articolo di Repubblica, leggo a pagina 19: quella mattina si è presentata in caserma perché dopo innumerevoli tentativi di convincere il figlio a smettere non sapeva più cosa fare. Lo dice il generale Renzo Nisi, comandante provinciale della Guardia di Finanza. Ci ha confidato che era finito in un brutto giro, che gli spacciatori lo tenevano in pugno, lo stavano rovinando. Non abbiamo perso un minuto, siamo andati a scuola per un controllo e da lì poi è successo tutto. Le parole, dicevamo, della madre, che si è rivolta a tutti i ragazzi. Ragazzi che, ha detto al funerale, state piangendo la scomparsa di Joe insieme a noi. In ognuno di voi sono presenti dei talenti che vi rendono unici, irripetibili, e avete il dovere di farli emergere, svilupparli. Ma là fuori invece c'è qualcuno che vuole soffocarli, facendovi credere che sia normale fumare una canna, normale fino a sballarsi, normale andare sempre oltre. Diventate piuttosto i veri protagonisti della vostra vita, cercate la straordinarietà. Straordinario è mettere giù il cellulare, parlarvi occhi negli occhi, invece che mandarvi faccine su WhatsApp. Straordinario è avere il coraggio di dire a una ragazza «sei bella», invece di nascondersi dietro le domande preconfezionate di Ask. Straordinario è chiedere aiuto quando proprio vi sembra che non ci sia via di uscita. Straordinario è avere il coraggio di dire ciò che sapete. Ecco, parole queste sicuramente straordinarie di una mamma anche disperata, disperata prima perché non sapeva più cosa fare per il figlio e le canne, e ora doppiamente disperata perché quel figlio l'ha perso dopo avere chiamato la guardia di finanza e è successo quello che sapete. 25 anni fa, invece, nasceva di fatto Mani Pulite, perché 25 anni fa, il 17 febbraio per la precisione, quindi domani, veniva arrestato Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, colto in flagrante mentre accettava una tangente di 7 milioni di lire. L'abbiamo raccontata tante volte anche attraverso la voce di Luca Magni, imprenditore che decise di denunciare, nel senso che fece, si prese questi bei 7 milioni d'accordo con Di Pietro, con quello che sarebbe diventato poi il pool di Mani Pulite, con la procura di Milano, e diede la mazzetta, consegnò la mazzetta a Mario Chiesa. Luca Magni, che oggi parla al Giorno, viene intervistato, pagina 16, viene intervistato da Monica Guzzi, e dice: Mani Pulite iniziò con me, una denuncia pagata cara. È una vicenda che spesso ha raccontato e racconta ancora, come lui la mette così: siamo in pieno revisionismo. Chi come me ha denunciato il sistema delle tangenti non è più riuscito a lavorare nel settore pubblico, mentre personaggi come Craxi oggi sono trattati come grandi statisti, costretti ad andare in esilio per sfuggire a un colpo di Stato ordito da magistrati cattivi. Luca Magni, 57 anni, non nasconde il fastidio. È il 25esimo anniversario. Che pensa? Non ci ho proprio pensato e non ci penso più da anni, perché se ci penso mi arrabbio per quello che è capitato a me. Quando ho iniziato a lavorare col Pio Albergo Trivulzio, la mia azienda fatturava 1 miliardo di lire. Dopo la denuncia non sono più riuscito a vincere un appalto. Gli enti pubblici non mi hanno più invitato alle gare. E se mi guardo in giro vedo che non è cambiato niente. L'essere umano resta quello che è, anzi, le cose peggiorano perché sappiamo farci gli anticorpi. Allora dicevano di rubare per il partito, poi però avevano tutte le ville nell'Oltrepò Pavese. Ora sono più furbi, i sistemi sono raffinati. Un tempo il politico ti diceva: io ti do il lavoro o l'appalto e tu mi dai il 10%. Oggi ci sono le consulenze, gli incarichi, mazzette molto meno tracciabili. Ora io invece non ho più alcun interesse a lavorare con il pubblico. Insomma, tante parole, tanta disillusione, ma dice: lo rifarei, però cercherei di tutelarmi. Perché oggi un imprenditore dovrebbe denunciare? Gli imprenditori guardano i loro interessi e se denunciano poi vengono lasciati soli. Così Luca Magni, che con la sua mazzetta diede il via a Tangentopoli. Oh, anche oggi parleremo di Roma, gli articoli di Roma, gli articoli su Roberta Raggi, su Virginia Raggi. Oggi niente, non ci azzecco i nomi. Come stai, Giorgio Bescapè? Tutto a posto. Allora, ma nessuno, se non oggi Mario Giordano sulla Verità, sì, qualche giornale l'ha scritta questa vicenda, ma pochi, diciamo ben pochi, raccontano quello che succede a Milano con un assessore invece del sindaco Beppe Sala. L'assessore è Roberta Cocco. Ecco perché ho detto Roberta Raggi, stavo vedendo la foto dell'assessore Roberta Cocco e a lei. Che, come scrive nel titolo Mario Giordano a pagina 5 sulla Verità, viola la legge, ma non si chiama Raggi. Tutti zitti sulla Cocco di Beppe Sala, c'è anche questo gioco di parole. E Mario Giordano scrive: ma perché nessuno si indigna per Cocco di Sala? A Milano c'è un assessore, Roberta Cocco per l'appunto, che impunemente sta calpestando una legge dello Stato, quella che prevede la pubblicazione dei redditi per tutti gli amministratori pubblici. Ebbene, la legge c'è, ma lei se ne impippa, fa i capricci. Tutti gli assessori d'Italia esibiscono su internet la loro ultima dichiarazione al fisco, lei non lo fa. E perché? Perché no? Dice che l'anno scorso lavorava alla Microsoft. Evidentemente nella sua testa Microsoft è un'azienda extralegale, un'oasi di anarchia, un passepartout per l'impunità. Di fatto, semplicemente, non lo fa. Non pubblica i dati, non adempie il suo dovere. E perché nessuno si scandalizza? Perché nessuno protesta? Fateci caso, neppure un editoriale scatenato, una tiratina morale di Michele Serra, una colonnina di fuoco nelle prime pagine nazionali. Niente di niente, silenzio totale. Evidentemente sono tutti troppo impegnati a ragionare sulla moralità della Giunta di Roma per occuparsi della moralità della Giunta di Milano, dove le regole, par di capire, valgono per tutti, ma non per gli assessori, specialmente per chi è cocco di sala. E vabbè, poi continua l'articolo, ma insomma, questo gioco di parole non è neanche male, cocco di sala. Siamo però all'articolo che mi fa pinzare della giornata, per la notizia che mi fa pinzare della giornata, la notizia da mani sul volante se siete alla guida. Guardate, non è una difesa corporativa, lungi da me, io non sopporto le difese corporative. Quando qualcuno dice che siamo una casta per qualche verso, noi giornalisti, dico è vero, che siamo una corporazione, dico è vero, che ci autodifendiamo, ci autotuteliamo così per partito preso, è vero. Ma cosa significa la proposta di legge in Senato proposta da ALA? Ma è anche bipartisan, ci sono firme, scrive il Fatto Quotidiano con Virginia Della Sala, pagina 3, di PD, Forza Italia, Lega, altri, compreso un Movimento 5 Stelle, Gianni Girotto, sulle fake news. Le fake news, già voglio dire, già leggo le fake news e mi fa imbizzarrire. Multe, carcere per chi pubblica notizie esagerate. Notizie esagerate. Si vieta la pubblicazione attraverso piattaforme informatiche di notizie false, esagerate o tendenziose. C'è anche il carcere, oltre alla multa fino a 5.000 euro. E giustamente il Fatto si chiede, ma cos'è una notizia esagerata? Cos'è una notizia tendenziosa? Come si dimostra? Cioè io dico, Peter Bescapè tiene la Juve, è falsa. E che vabbè, sì, falsa, sì, è del Milan, è tendenziosa. Notizie che sono atte a turbare l'ordine pubblico. Ecco, se uno mi dà dello Juventino, per me è un turbamento dell'opinione pubblica e dell'ordine pubblico, perché potrei scendere in piazza e prendere a pugni qualcuno. Ma che cos'è? Cos'è? Le fake news sono una scusa, arriva la legge liberticida, giustamente scrive il Fatto Quotidiano, molte carcere per le notizie esagerate. Ma signora, ma che fa? Ma metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Arria ol Milan, che lessi giornai. Bravo, Alino. Bergamasco. Evviva, viva tutta la bergamasca. Allora, adesso però al lavoro e a scuola, mi raccomando. Allora, il Partito Democratico bisogna aggiornare puntata numero 7494 della telenovela Scissione. Titolo di oggi: la scissione è dietro l'angolo. Dietro l'angolo. Questo è il titolo che si può dare dopo aver letto tutti gli articoli che oggi riguardano in retroscena il PD. Renzi era a Milano, ha incontrato o no l'ex sindaco Pisapia, che vuole lanciare un nuovo movimento a sinistra? Beh, tutti giurano di sì. Pisapia non conferma, ma altre fonti accreditano questo incontro, mentre dall'altra parte Emiliano Speranza e Rossi, vale a dire due governatori e il capogruppo alla Camera Speranza, ex capogruppo alla Camera per la verità del Partito Democratico, vogliono in qualche modo coalizzarsi in fronte anti-Renzi. Comunque, dall'altra parte Bersani racconta Repubblica, la scissione è dietro l'angolo, questo è il titolo, i pontieri non frenano Bersani, questa non è più casa mia. Questa è la frase affidata a Pierluigi Bersani, dipinto come il dirigente che non lo farà mai, cioè non farà mai la scissione, proprio lui invece spinge per la scissione, indifferente agli appelli all'unità, alla cura della ditta, al fatto traumatico dell'addio di un ex segretario del partito. Non è questione di forma, dice Bersani, è che non mi sento più a casa. Questo dice ai suoi. E allora la strada è tracciata, a meno che lo stesso segretario Renzi non usi le prossime 72 ore per una retromarcia, pressato dai suoi dal timore di uno strappo troppo doloroso. Ora sembra infatti che ci si muova verso un tentare di congelare la scissione. Che succederà? Chi lo sa? Trullallero, trullallà. Anche oggi questo forse l'ho trovato su qualche giornale. Staremo a vedere. Certo, domenica, la puntata numero 7494, dovrebbe dare degli sviluppi abbastanza precisi. Parla Emiliano, intanto intervistato dalla Repubblica, pagina 6. Matteo, le ha perse tutte, non lo segue più nessuno. O cambia linea o siamo fuori. Michele, butta fuori Renzi, gli dicono. Promesso, signora. Renzi che dovrebbe fare, scusi, chiede Tommaso Ciriaco di Repubblica. Accettare una conferenza programmatica, poi un congresso che non sia un rito abbreviato. Insomma, andare in autunno. Sarebbe un buon inizio se tra lei, Speranza e Rossi uscisse fuori un solo nome, il suo, giusto? Fate conto che queste tre persone siano già una persona sola, un candidato unico, poi stabiliremo i ruoli tra questi primus inter pares. Se si fa un congresso è una cosa, se un movimento di ricostruzione del centro-sinistra un'altra, ma non siamo soli. Pezzi della maggioranza renziana hanno capito che un PD trasformato in partito personale di Renzi è destinato a una legnata elettorale tale da farlo scomparire. Così parlò Emiliano a Repubblica. Anche Orlando racconta il retroscena di Tommaso Labate sul Corriere della Sera, pagina 9, avverte il segretario Renzi dicendo «Fermati o partirà una conta di persone». Forse l'articolo più interessante in questo mare di retroscena è quello di Nicola Piepoli, il barometro sulla stampa. Perché? Pagina 4 e 5, Nicola Piepoli fa un sondaggio. E allora si legge «PD impopolare, ma degno di fiducia». Renzi diventa uno dei tanti leader. La popolarità del PD è in caduta libera, scrive Piepoli, sebbene i suoi esponenti siano considerati più degni di fiducia di altri. Il ridimensionamento di Renzi è un altro elemento di questo sondaggio, torna a essere uno dei tanti leader di partito. La vitalità e compattezza dei 5 Stelle, percepiti come gli aspetti che potrebbero fare la differenza. Insomma, regala scenari inediti l'ultimo sondaggio del nostro istituto compiuto per la stampa nella settimana della direzione del PD. E ci sono tutti i sondaggi. Per esempio, Michele Emiliano ha una fiducia, secondo le persone interrogate in questo sondaggio, del 56% e una conoscenza da parte delle persone del 41%. Renzi, il contrario, ha una fiducia calata del 41%, ma una conoscenza, cioè 83%, sanno chi è. L'indicatore dell'immagine, cioè la percentuale di valori positivi, a Michele Emiliano è dato il 56% in questo sondaggio, Nicola Piepoli. Enrico Rossi al 54%, Renzi è solo terzo al 52%. E secondo le persone sentite, il Partito Democratico è definito dall'81% di loro un partito frammentario composto da più correnti politiche, mentre solo il 9% dice è un partito unito. Questo è il sondaggio che trovate sulla stampa. Dicevamo anche di Roma, c'è un nuovo giallo, raccontano i giornali. Il nuovo giallo è una terza polizza, ancora. Cioè una nuova polizza, no, forse la seconda, non lo so, ho perso il conto delle polizze. Comunque, c'è una nuova polizza per Raggi. Il sospetto a questo punto manovre per incastrarla. Perché, racconta Fiorenza Sarzanini, pagina 11 del Corriere, Salvatore Romeo, sempre lui, ex segretario del gabinetto della Raggi, ha aperto una terza polizza vita in favore della Raggi del valore di 8.000 euro e lo ha fatto dopo che il sindaco, indagato per abuso d'ufficio, era stata convocata dai magistrati. Cioè dopo, ultimamente, una mossa inspiegabile per gli inquirenti che a questo punto non escludono possa trattarsi di una manovra per incastrarla. Anche perché la circostanza è stata contestata lo stesso Romeo nell'interrogatorio e lui si è limitato a rispondere, lo ha fatto per l'affetto, per affetto. Vabbè. C'è un'altra vicenda inquietante che riguarda Romeo, scrive il Corriere. Il 19 dicembre, primo giorno lavorativo dopo l'arresto di Marra, una cassetta di sicurezza a lui intestata è stata completamente svuotata. Misteri che i pubblici ministeri coordinati da Paolo Ielo stanno cercando di chiarire. Questo è il nuovo giallo per quel che riguarda l'inchiesta. Terza polizza Raggi e una cassetta svuotata. Questo è il titolo anche di Repubblica a pagina 11. A proposito di cassaforti vuote, e di tutto svuotato, sono andati a casa di Tulliani. Tulliani, il cognato di Gianfranco Fini. Gli investigatori della Guardia di Finanza, racconta Giovanni Bianconi a pagina 10 del Corriere della Sera, sono andati a casa di Tulliani, che tra l'altro, secondo la verità, risulta ormai residente a Dubai da qualche mese, avrebbe spostato la residenza lì oltre, secondo la verità, anche a 600.000 euro. Ebbene, quando sono andati a casa di Tulliani, hanno trovato la cassaforte aperta e vuota. E hanno trovato soprattutto un sacco nero di spazzatura pieno di documenti triturati. Sapete quando si mettono in quelle macchine che triturano tutto? Ecco, così hanno trovato la cassaforte vuota, le carte triturate a casa di Tulliani. Scrive il Corriere: perquisizioni senza risultati anche da Fini, sospetti sui rapporti con il re delle slot, Corallo. Va bene, tutto triturato, va bene. A proposito di trituramenti, no. A proposito neanche di fake news, il nostro Mauro Meazza. Buongiorno. Buongiorno, vedo che ti appassioni alle case, fai bene. Oh. Fai bene perché oggi sai che con il sole 24 ore c'è casa 24. Oh, ecco, e quindi è giovedì, perché il giovedì c'è casa 24, tra l'altro con un servizio sugli interventi di tipo antisismico. E restando un po' in tema di sisma, avrai colto sicuramente sul nostro giornale, ma così come anche su altri, che il conto del sisma, del costi del sisma dal 24 agosto era 23 miliardi. Come no, e mezzo. Abbiamo segnalato, come dire. Ti sei perso 500 milioni. A 23.500 milioni, non volevo perdermi per strada nulla, grazie di essere attento alla contabilità. Però ti segnalo nelle stesse pagine di Imprese e Territori, che tu devi leggere come sempre scrupolosamente, come sempre, troverai anche un interessante contributo di Mariano Maugeri, che ci informa come all'Aquila, hai presente l'Aquila? C'è nel 2009. Purtroppo. Ecco, c'è un problemuccio con la burocrazia che sta abbastanza rallentando le fasi di ricostruzione, ma per mancanza di mezzi. Articolo che consiglio da meditazione oggi, insieme appunto a questo conto che abbiamo segnalato a Bruxelles, dicendo abbiamo dovuto pagare qualcosina in più, abbiamo dovuto affrontare qualche spesa in più per il sisma. Bene, ma a proposito di pubblica amministrazione, caro Alessandro Milan, sappi che rischiamo la procedura di infrazione perché la nostra la pubblica amministrazione paga tardi, 130 giorni di media, le regole europee direbbero 30, massimo 60. Non va bene, e allora ne riferiamo oggi, pagina 2 tra l'altro, dove si parla anche di questo rapporto OCSE, dove la pagellina dell'OCSE che dice che andiamo benino ma potremmo fare di più, come si faceva a scuola. Ebbene, lì si segnala anche questo rischio di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Una buona notizia, non ci sarà lo sciopero dei commercialisti. Hai visto su norme tributi, che già religiosamente stavi leggendo, quindi certo, immagino proprio per tempo. Ecco, leggi allora avidamente su norme tributi, leggi tutte quante le pagine, perché lì si parla del mille proroghe e tu me lo trascuri. Guarda che lì arrivano anche... Prometto, ho già comprato il Bignami. Ecco, no, leggi norme tributi, che è meglio del Bignami, fidati del dosso di norme tributi, delle pagine di norme tributi. Soprattutto perché, e vorrei chiudere proprio su questo, che devi sapere che se vuoi videosorvegliare la colf, tu potresti avere le telecamere in casa. Io non so se tu disponi di questi sistemi di videosorveglianza. Non posso svelarlo così. Insomma. Vabbè, insomma, in ogni caso sappi che devi comunque informarlo e rispettare la privacy. Ci sono delle regole molto precise. Trovi tutto, naturalmente, come sempre, su norme e tributi. A domani, Alessandro. Traffico! Alessandro Milan, la patata bollente dell'informazione. Eccola, figurarsi se non arrivava. Eccoci alle 7:48 minuti. Allora dobbiamo andare negli Stati Uniti, dove c'è stato l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump, presidente americano, e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Perché? Beh, perché intanto, come hanno fatto notare tutti i giornali, in qualche modo Donald Trump ha demolito in un solo colpo lo schema cristallizzato dagli accordi di Oslo del 93 e da allora criterio guida per tutti i presidenti americani, da Bill Clinton a George W. Bush a Barack Obama, cioè due stati tra israeliani e palestinesi. Di fronte a questa domanda, la risposta chiave di Donald Trump è solo in apparenza accomodante, come racconta il Corriere a pagina 2. Per me va bene sia la soluzione con due stati o quella con uno stato. L'importante è che le parti siano d'accordo. E questa frase però ha demolito, insomma, l'unico assunto condiviso anche dall'ONU, dalla Russia, dall'Unione Europea, da tutti. Tanto che il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha subito protestato dicendo: non esiste una soluzione alternativa ai due stati e dovremo tutti salvaguardarla. Però, come fa notare Mario Platero sul Sole 24 Ore, pagina 8, è un altro il punto forse principale di questo incontro tra Trump e Netanyahu. Intanto, anche il linguaggio del corpo: mai visto un sorriso così smagliante del leader israeliano nelle sue visite alla Casa Bianca quando c'era Barack Obama. Allo stesso modo Donald Trump ha usato parole di grande elogio per il leader israeliano, dunque grandi rapporti. E scrive Platero: per riavviare il processo di pace tra israeliani e palestinesi sarà necessario creare un contesto molto più ampio di quello attuale, saranno coinvolti altri paesi arabi. E questa, secondo Platero, è la notizia più importante emersa dal primo vertice Israele-Stati Uniti nell'era Trump. La novità è l'approccio multilaterale. Certo, poi c'è la questione due stati, uno stato, però per Platero questo è il punto principale. Torniamo in Italia. Qualche notizia di cronaca che vi voglio sottoporre. Intanto si parla sempre di lavoro, le professionalità, i lavori tecnici che mancano, che non ci sono, nessuno vuole fare l'elettricista, non lo dico io, leggo il titolo di pagina 10 della Stampa, la scuola rischia di chiudere, la storia a Erba della scuola Romagnosi, istituto tecnico senza più allievi iscritti al nuovo anno, col preside che dice c'è poca consapevolezza, usciti da qui l'impiego è assicurato. Già, ma chi vuole fare l'elettricista? È la domanda che io giro a voi. In 10 anni dal corso per elettrotecnici dell'Istituto Romagnosi di Erba, Como, sono usciti 350 elettricisti. Tutti hanno trovato un lavoro in tempi brevi nelle aziende della zona. Ma dal prossimo anno scolastico rischia di non essercene neanche uno. I ragazzi non sono interessati a imparare il mestiere, si sono prescritti al corso in 8. In passato c'erano 2 classi da 18 persone e quindi il corso potrebbe scomparire. Chiaro, non si può con una fotografia e una storia non può spiegare tutto il mercato del lavoro, però questo è un esempio pratico. Chi vuol fare l'elettricista? Dei ragazzi giovani ovviamente, sto parlando. Eppure nessuno si iscrive in quella scuola. Invece in Sicilia l'ultima uscita di Antonino Fiumefreddo, che governa Riscossione Sicilia, cioè l'Equitalia siciliana, sentito dall'antimafia. L'ultimo uscito, sapete che è uno che abbiamo ospitato anche noi, Fiumefreddo, uno che parla chiaro, che dice per esempio che tutti i deputati siciliani, perché si devono chiamare così lì i consiglieri regionali, deputati, hanno l'autonomia. Ebbene, non hanno pagato le tasse per anni, finché Fiumefreddo non gliela chieste. E allora l'ultima denuncia di Fiumefreddo è questa: paradiso per gli evasori, mancati incassi per 52 miliardi. Sentite cosa ha detto all'antimafia: tutti gli appalti in Sicilia sono irregolari. Così ha detto, tutti. Ovviamente l'associazione costruttori si è ribellata, chiediamo l'attestato a Equitalia, ma tutti. Tutti irregolari, questo Antonio Fiumefreddo, che ha parlato di un buco di 52 miliardi appunto in Riscossione Sicilia, tra questi anche i soldi che dovrebbero dare i parlamentari, i consiglieri regionali, insomma. Vabbè, e questo è, e lo trovate su tutti i giornali. Il Giornale lo mette addirittura come notizia di prima pagina, con il titolo di prima pagina. Il titolo che è questo: la Sicilia dei furbetti non paga più le tasse. Va bene, ieri Ernesto Galli della Loggia ha lanciato il dibattito vecchio, un po' trito e ritrito, su Venezia numero chiuso di turisti, così come altre perle italiane, per dire, cioè no a questo, questa invasione di turisti che poi calpestano, sporcano, non sa da fare. E oggi Luca Zaia, governatore del Veneto, risponde in qualche modo a Galli della Loggia con una lettera pubblicata al Corriere della Sera: Venezia a numero chiuso per i turisti. Luca Zaia è a favore, per i delicati equilibri della città di Venezia, di appunto un numero chiuso, così Zaia. Va bene, siamo quasi alla carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qua, Antonella Gullotti, siamo sulla Verità anche oggi, una pagina intera dedicata al crack di Johnny Depp che aveva mezzo miliardo di dollari ed è rimasto al verde. Ma chi se ne frega!